con grande piacere questa sera la nostra presentazione, il nostro martedì vede come ospiti molto graditi Sandor Tartar e la nostra Luisa Bertolini, che conosco da alcuni anni. Sono entrambi docenti e sono stati docenti presso le scuole superiori di Bolzano, in particolare del liceo classico e liceo scientifico, ma anche Sandro Tart, ma Luisa Bertolini, che questa sera ci aiuta nella moderazione della presentazione di questo libro, è anche attualmente la direttrice della rivista filosofica Fillide, mentre Sandro Tartar insegna alla scuola superiore di scienze religiose di Bolzano metafisica ed etica. Ha scritto parecchi libri, ma quello di stasera è il più attuale, ma che ha comportato un grande lavoro, e La ferita dell'onnipotenza, quello che la Bibbia può insegnare sulla libertà. E su questo concetto inizieremo poi la nostra serata. Non sarà una serata semplice, ma sarà una serata molto interessante, questo ve lo prometto. Abbiamo, come di consueto, preparato anche una vetrina tematica legata sempre a questi temi, e in fondo trovate anche delle copie a disposizione per chi fosse interessato. Ecco. Che dire, apriamo questo ultimo mese di attività della Biblioteca Provinciale dedicandoci alla filosofia, alla religione, all'indagine scientifica e filosofica, ma anche diciamo religiosa, del concetto di libertà, del concetto di scelta, del nuovo. Ecco, poi sono tutti temi che io non mi sogno neanche di affrontare, vorrei poi ascoltare da parte dei nostri ospiti che sono qualificatissimi. Quello che mi preme dire è che la Biblioteca Provinciale ha come missione e scopo quello sempre di aprire nuovi cancelli, nuove porte per tutti, in maniera tale da ampliare le conoscenze, da incuriosirsi e soprattutto da leggere anche libri o guardare in internet risorse elettroniche che mettiamo gratuitamente a disposizione, perché il nostro è un servizio pubblico ed è un bene comune che vogliamo e ci teniamo di far conoscere e condividere con tutti voi. Che dire, la conferenza della prossima di domani sarà dedicata alle donne e ci sarà con noi Giuliana Franchini, una psicologa e una psicoterapeuta di Bolzano, che parlerà dell'amore dannoso. Quindi vi invitiamo anche a partecipare per conoscere a fondo questo tema che più che mai è attuale. E come vi dicevo, la prossima settimana invece, martedì 2 dicembre, sarà la volta di Gabriele Salvaterra con una conferenza accompagnata anche dalla musica nel percorso di arte e musica che stiamo facendo con il CLS, Pierre Solange, La luminosità del nero, e il relatore sarà Gabriele Salvaterra. Andremo avanti poi con il 9 dicembre e Leonardo Coletti, professore docente di fisica al liceo classico di Bolzano, sarà insieme a Franco Caccialli per presentare il libro che si intitola Onde di materia. E infine avremo il 10 di dicembre il professor Giorgio Dobrilla che presenterà il suo libro con una domanda: saggezza in caduta libera? Punto interrogativo. Quindi vi invitiamo a queste serate, se avete un calendario abbastanza pieno e fitto con la biblioteca, ci sono dei promemoria che potete prendere qui oppure passare a trovarci nei prossimi giorni. Cedo la parola ai nostri ospiti, che ringrazio ancora, e buona serata a tutte e a tutti. Buonasera, mi sentite? Io cito gli altri libri di Sandro Tartar nella presentazione. Nel 89 è uscito un libro su Giobbe, Crisi della metafisica e pensiero dell'esilio, per la casa editrice TS. Poi nel 95 su Levinas, La riva di un altro mare, sempre per la stessa casa editrice. Nel 2004 di nuovo Levinas e Derrida, Evento e ospitalità per la cittadella. Tartar però si è occupato anche di altre cose, del cinema in particolare. Ha seguito il Cineforum che si teneva per lunghi anni al Centro Lovera. Ha costruito dei cortometraggi, dei lungometraggi, dei documentari coinvolgendo spesso anche gli studenti dei licei, e infatti noi siamo stati colleghi sia al liceo scientifico che al liceo classico. E quindi io comincio subito con una prima domanda, e la prima domanda riguarda la prima cosa che ci colpisce aprendo questo grosso libro di 400 pagine in molte parti, molto molto difficile. E cioè c'è sicuramente il riferimento al testo sacro cristiano della Bibbia, ma non c'è soltanto la Torah, c'è anche il Talmud, c'è il Midrash, più una serie di testi di rabbini medievali e moderni. E non solo, ma c'è l'uso dell'ebraico, della scrittura ebraica, e spesso affiancata da una traduzione letterale. Allora, la prima domanda è questa: perché questa scelta, che cosa costituisce questo corpus di testi a cui fai riferimento? Grazie. Beh, intanto, buonasera a tutti, vi ringrazio per essere venuti numerosi. Dunque, allora, sì, siamo stati colleghi molti anni, io e Luisa. Abbiamo litigato, abbiamo fatto lezione assieme a volte in classe, e devo dire anche che io glielo ricordo sempre, ma lei non se lo ricorda, che forse una delle questioni centrali che ci sono in questo libro sono nate proprio durante una lezione fatta assieme. Perché così discutavamo, io un po' da un punto di vista, io ero insegnante di religione, lei è insegnante di filosofia, e lei sostanzialmente mi stava dicendo che, ipotizzando Dio o una divinità, io di fatto ponevo come una specie di fondamento, un fondamento che evidentemente non è più possibile mettere in discussione, perché è posto e basta, no? Io cercavo di uscire da questa trappola, interessante, importante, e poi la via d'uscita in realtà l'ho trovata proprio quel giorno lì, perché l'ho detto, ma il punto non è mettere Dio come fondamento. Il punto è che Dio non è il fondamento, è l'assenza del fondamento. Dio è proprio il fatto che un fondamento non si possa porre. Cioè questa impossibilità di chiudere il discorso, di far poggiare le cose su qualcosa di definitivo. Ecco. E in fondo è da lì che è nato veramente il lavoro che poi attraverso diversi anni ha portato a questo lavoro qua, che per me è stata una sorpresa, insomma, anche. Cioè, nel senso che io sono andato in pensione e ho detto, boh, mo che faccio? E mi sono letto un rabbino dal nome molto buffo, si chiama Ben Bagbag, di cui è conservato un unico frammento, vabbè, lo recito più o meno a memoria, è un rabbino molto antico peraltro, siamo all'epoca di Gesù di Nazareth, anzi forse un pochino prima addirittura, e questo rabbino dice: girala e rigirala, perché dentro c'è tutto, invecchiaci sopra. E sta parlando della Torah. Girala e rigirala, non stancarti mai. Sì. E io ho pensato, cioè io di Bibbia mi sono occupato un po' per lavoro, perché insegnavo religione, ma un po' perché in realtà lo considero il testo più problematico e interessante della mia vita, insomma, cioè nel senso che in stagioni diverse mi ha molto accompagnato, perché la Bibbia è un libro con dentro un sacco di domande e un sacco di provocazioni, alcune sono vere e proprie sberle, nel senso che è un libro molto, molto duro, molto più duro di quello che si immagina quando pensiamo alla Bibbia con un taglio, mi perdonino eventuali sacerdoti, un po' catechistico, no? Un po' catechistico, per cui noi siamo abituati appunto al testo biblico come il testo della parola di Dio, e la parola di Dio ci invita ad amare, eccetera, eccetera, e siamo dentro questo alone di profonda bontà. In realtà la Bibbia è un testo molto più spigoloso di quello che può apparire, e quindi mi è sempre interessato. Ma Ben Bagbag parla della Torah. Ora, la Torah è la Bibbia ebraica, siamo abituati a dire, no? E allora provo a spiegare come sono arrivato poi a infilarmi in questi testi. Testi che in parte già conoscevo, per esempio ne ho uno qua, questo è il Bereshit Rabbah, che letteralmente vuol dire insegnamento sul Genesi, insegnamento sull'inizio. Bereshit sono le prime parole della Bibbia, sono le prime due parole, quelle che noi traduciamo con in principio. Questo libro io ce l'ho da circa, possono essere 40 anni. È un testo nella vecchia edizione della UTET che è stato ristampato recentissimamente dalla Giuntina, uguale identico, in un'altra impaginazione, ma il testo è proprio lo stesso. E l'ho aperto poco, qualche volta. Dopo aver letto Ben Bagbag l'ho aperto meglio e mi sono accorto che era un testo straordinario, un testo con dentro una quantità di voci, di discussioni, di dialogo, di botta e risposta, di interpretazione. È proprio un testo di interpretazione narrativa della Genesi. Questo è un grande libro della tradizione ebraica, fa parte di un corpus di libri che si chiama Midrash Rabbah, che poi è il grande Rabbah, lo possiamo considerare così, che sono i racconti, diciamo, la tradizione narrativa dei maestri dell'ebraismo nel corso dei secoli. Questo testo più o meno è stato redatto tra il III e il V secolo d.C., ma poi se ne sono stati scritti altri. Nel corso dei secoli questa tradizione ha commentato tutta la Torah sostanzialmente, e i primi cinque libri della Torah più il rotolo delle Megillot, dove c'è dentro Ruth, il Cantico dei Cantici, sono cinque volumi, adesso non mi ricordo al volo, e è raccolto in questo grande Rabbah che non è tradotto in italiano, per cui me lo sono dovuto recuperare in un'edizione inglese americana. Mi sono proprio fatto arrivare, sono 7-8 volumi, insomma, no? Il problema è che il mio inglese è quello di un turista scarso, cioè nel senso è praticamente nullo, e quindi l'altro debito che ho è verso la tecnologia, nel senso che io ho potuto leggere, tradurre e leggere questi libri grazie agli strumenti che oggi la tecnologia ci mette a disposizione. Fotografi, scansioni, traduci, controlli la traduzione con un paio di strumenti in modo tale da essere sicuro che non ti abbiano rifilate delle bufale, e leggi. E mi si è aperto un mondo, per cui dopo aver comprato il grande Rabbah mi sono comprato un altro enorme testo della tradizione ebraica mistica, che è lo Zohar, o libro dell'illuminazione, che è sostanzialmente il testo della tradizione mistica ebraica. Tradizione mistica che non va tanto d'accordo con la tradizione invece rabbinica. Quindi, insomma, è un mondo dove ci sono molte discussioni, e questo mi piace da pazzi. E quindi l'approccio della lettura ebraica mi è sembrato subito... ecco, se c'è qualche ebreo magari poi si offende, però mi è sembrato subito casa mia. Io non sono un ebreo. Però ho avuto la sensazione di trovarmi dentro testi che parlavano a me, e avevo l'impressione, scrivendo, di poter entrare in dialogo con questi testi. Quindi ho cominciato a scrivere, come dico all'inizio del libro, ho cominciato a scrivere per leggere, perché a volte scrivere aiuta a mettere in ordine le idee e quindi ad approfondire la lettura. E questa cosa pian piano è cresciuta lungo 5 anni, 4 anni e mezzo più o meno. Ed è diventato un volume che in realtà nella sua versione originale è più grosso di questo. E quando me l'hanno detto dalla casa editrice, mi hanno detto: guardi, ci interesserebbe anche, ma pubblicarlo così a chi vuole venderlo? Erano circa 600 pagine. E io ho detto: oddio, no, Avevo calcolato male, quindi l'ho rivisto, per fortuna l'ho rivisto, cioè nel senso che ci ho rimesso mano, l'ho riletto, l'ho pulito, l'ho asciugato e alla fine è venuto fuori questo lavoro che adesso, insomma, secondo me ha un suo perché. E sono contento di averlo visto nascere, perché in realtà io lo consideravo l'opera postuma, cioè nel senso, qualcuno forse, no? Qualcuno forse poi... Vabbè. Posso fare un'altra domanda? Certo. Allora, entriamo nel merito. La figura di Caino, a cui dedichi particolare attenzione. Sono forse il custode di mio fratello, chiede. E poi rincara la dose. È vero, l'ho ucciso io. Ma sei tu, Dio, che hai creato in me l'inclinazione alla malvagità. La seconda frase mi sembra tutto sommato più semplice, poiché riguarda la responsabilità morale. E quindi in ogni caso un atto malvagio richiama la tua responsabilità. Mi sembra più difficile la prima, perché certo Caino sa bene che cosa ha fatto e che cosa è capitato al suo fratello. E lo scrivi anche tu. Ma il problema è la ricerca, questa volta però mi sembra che del fondamento si debba parlare, perché si tratta di un altro problema, che è il fondamento dell'etica. Allora tu dici a pagina 199, dici, e questo è il tema del dovere, no? Perché dovrei? La risposta al quesito perché dovrei, scrivi, sta in un devo. Va cercata questa risposta più nell'ordine dell'obbedienza che in quello dell'opportunità, e tantomeno nella questione del buon cuore, del fatto che uno faccia una buona azione per sentirsi bene. Chiaramente il punto non è questo. Ma tu dici, è la pura e semplice autorità del comando divino che qui si segnala. E quindi questo avviene, dici dopo, prima di ogni comprensione. Ma allora questo dovere, di nuovo, forse è una domanda un po' spostata rispetto a quella che ti facevo. Qual è il fondamento del dovere? Certo. Dunque, qui ce ne sono due o tre, no? di questioni. La storia di Caino... immagino che l'abbiate presente tutti, per cui non sto a raccontarvela più di tanto, anche se qualche passaggio. Ora, le prime cose che Luisa ha letto, quando Caino replica al Signore dicendogli sei tu che hai creato in me l'inclinazione al male, attenzione, non è testo biblico, ma è Midrash, è il commento midrashico sul testo biblico, cioè i rabbini spesso che commentano il testo biblico lo commentano interpretando e magari aggiungendo, a volte anche in maniera molto buffa, parti di dialogo, no? Però io trovo interessantissima la figura di Caino per una serie di ragioni. Primo, perché è una figura straordinariamente moderna. Il capitolo su Caino si conclude con un parallelo con Achille, per una ragione che adesso non vi sto a spiegare, ma si conclude dicendo Achille l'abbiamo consegnato al mito, Caino lo vediamo tutti i giorni. Cioè Caino è presente in qualche modo. E Caino uccide il fratello e tutti sappiamo perché. Sappiamo che Dio ha rifiutato il suo sacrificio e ha gradito invece quello di Abele. Questo è quello che ci resta in testa di solito, no? Cioè, Caino è il primo a fare sacrifici e sacrifica frutti della terra perché è un agricoltore. Ora, quando io andavo a catechismo da bambino, ci davano dei libretti illustrati. E su questo libretto illustrato c'era un Caino abbastanza sporco, scuro, vestito con degli stracci, davanti a un altare fatto malissimo, e sopra bruciavano delle cose immonde, per cui si produceva un fumo nero che saliva al cielo e ricadeva subito, praticamente, no? Cioè smog, praticamente. Mentre invece Abele era ovviamente biondo, l'abito era bianco, l'altare era fatto benino e sopra c'era un agnello che era felice di essere sacrificato. Quindi il fumo era bianco e saliva come vapore acqueo. Non so se qualcuno di voi ha mai visto della carne bruciare, ma non è esattamente così. Ma comunque, ho scoperto che in realtà questi librettini del catechismo pescavano nella tradizione ebraica. Nel senso che nel Bereshit Rabba si raccontano proprio queste cose, perché i rabbini cercano una giustificazione per spiegare come mai Dio rifiuta il sacrificio di Caino. Per cui dicono, sarà stato un pessimo, avrà fatto delle cose schifose, sacrificava delle robe bruttissime, cioè elencano queste cose. Il fumo, c'è anche il fumo nero proprio, no? Cioè, c'era tutto. Mi chiedo se quelli che hanno scritto i libretti hanno letto il Bereshit Rabba. Questa sarebbe una domanda interessante, perché credo di no. Quindi mi chiedo come siano arrivati questi racconti, ma comunque... Ebbene, tutti noi siamo portati a farci una domanda di solito, no? Cioè quando ci chiediamo, cioè noi diciamo, insomma, ci sembra di capire bene perché Caino si arrabbia, perché il suo sacrificio viene rifiutato, quello di Abele no, e non sappiamo perché, la Bibbia non dice nulla. Ma il sacrificio di Caino, non gradì il sacrificio, gradì il sacrificio di Abele, ma non quello di Caino, punto. Punto. Spesso la Bibbia, quando chiude con un punto, sorgono dei problemi o stanno per sorgere dei problemi. Caino si arrabbia moltissimo, si risente tantissimo, il livore, il risentimento, ecco, questi sono sentimenti diffusissimi oggi. E a questo punto Dio lo chiama e gli parla, fa una cosa che nella scrittura accade sì e no 3-4 volte. Cioè Dio che parla a un uomo. Succederà con Abramo, succederà con Mosè, con pochi altri. E uno di questi è Caino. Questo mi ha indotto a pensare che Dio si aspettasse qualcosa da Caino. Gli parla e gli dice: perché sei abbattuto? Perché ti sono cadute le facce, dice il testo letteralmente, no? Perché hai abbattuto il tuo volto? E Caino cosa fa? Non dice nulla, tace, tace. E Dio insiste e dice: guarda, dice, se hai agito bene, tieni alta la testa, perché altrimenti se stai torvo e stai piegato su te stesso, il male è accovacciato alla tua porta e ti prenderà, nel senso ti dominerà, ma tu invece dominalo. Ecco, questo è un passaggio fondamentale, perché qui si allude ad una possibilità umana di decidere, cioè di tenere a bada una pulsione, in questo caso un sentimento, un istinto, cioè tu dominalo. Caino che cosa fa? Dice a suo fratello: andiamo ai campi. Cosa che mi ha sempre dato la sensazione di un atto, di una trappola, di un vero tranello. Cioè andiamo ai campi, cioè si fida della... Abele si fida della fratellanza. Attenzione, Abele è senza voce, non dice nulla. Noi non conosciamo né una voce né una parola di Abele. Abele letteralmente è hevel, che è spreco, fiato sprecato. È una vita non vissuta. È quella possibilità che non ha potuto vedere la luce. Abele va ai campi con suo fratello e suo fratello, approfittando della fratellanza, altra cosa, la Bibbia non ama i legami di sangue, contrariamente a quello che credono i nostri propagandisti politici soprattutto, non ama i legami di sangue, diffida dei legami di sangue. Nel senso che il sangue, come dice Levinas, è sempre in procinto, il legame del sangue è sempre in procinto di affogare nel sangue. Cioè vede in questo il pericolo, perché c'è una sorta di extraterritorialità rispetto al diritto, ma questo è un altro argomento. Ma il punto è che tutti noi, capiamo Caino. Capiamo Caino perché diciamo, e beh, insomma, però, perché Dio ha rifiutato il suo sacrificio? Questa è la domanda che ci salta in testa. Sempre, io ho fatto dei test. Viene sempre fuori questa domanda. Perché Dio ha rifiutato il suo sacrificio? Nessuno ne fa un'altra. Cosa c'entra Abele? Cosa c'entra Abele? Perché non te la sei presa con Dio? Ecco, e questo è interessante, perché significa che Dio è come se in questo testo andasse cercando che cosa? Qualcuno che regga l'urto, qualcuno che lo regga letteralmente, no? Che regga la lotta, lo troverà, ce ne vorrà un bel po' di tempo, ma lo troverà. Prima Abramo, poi Giacobbe soprattutto, in una scena emblematica. Allora, vengo adesso alla questione invece dell'ordine, dell'obbedienza. La risposta al quesito perché dovrei stare in un devo. Ecco, questo nella Bibbia compare a volte, e compare per esempio su una cosa, 36 volte nell'Antico Testamento compare amerai lo straniero. 36 volte. Il comandamento più ripetuto, amerai lo straniero. E quando dice amerai lo straniero perché anche tu sei stato straniero in terra d'Egitto, eccetera, eccetera, si conclude sempre con perché io sono il Signore. Che è come dire, di questo non si discute. Cioè questo non è in discussione, di questo non discutiamo. L'ordine è questo, l'ordine è una specie di taglio netto, cioè come dire non ucciderai, sono lo tirzach, sono due parole brevissime, non ucciderai, è il comandamento più breve, è un ordine ma nello stesso tempo è un appello disperato. Allora, delle domande se le si potrebbe fare, cioè come si concilia questo per esempio con la libertà dell'uomo? Ma l'ordine non mette in discussione la libertà dell'uomo, l'ordine la invoca la libertà dell'uomo. All'ordine si può disobbedire. Non esisterebbe un ordine se non ci fosse la possibilità di disobbedire. L'ordine in qualche maniera chiama in causa la possibilità della disobbedienza. Non ho necessità di ordinare l'impossibile. Non posso ordinarti non camminare sul soffitto, perché no. Posso ordinarti qualcosa che so che potresti e che magari temo che potresti fare. Quindi l'ordine rivela la libertà. Questo sarà il tema poi della Torah. Non credo di aver risposto ad una d'altra parte. No, però hai risposto. Scusa. Mi ruba sempre. Questo problema diventa ancora più drammatico ovviamente nella figura di Abramo. Però prima di affrontare la questione del sacrificio, mi era piaciuto questa parte del confronto dialettico, argomentativo con Nimrod, in cui appunto il giovane Abramo ce la cava abbastanza bene nella discussione, e poi non lo riprendo tutto, ma è molto interessante. Il dialogo finisce con Nimrod che dice tu dici cose vane, ma io non presto culto altro che al fuoco, e ti ci getto dentro. Ecco, questo Nimrod è famoso per aver costruito, partecipato, ideato la costruzione della Torre di Babele, e quindi introduce un altro tema che comincia già qui, secondo me, in maniera interessante, no? È quello che è il Nembrotto di Dante, che nell'inferno dice delle parole che sono incomprensibili, è condannato a ripetere queste parole senza significato. Però appunto del tema del linguaggio vorrei chiederti più avanti. Per ora Abramo, quando viene a cui viene ordinato il sacrificio del figlio, non può parlare, ovviamente con la moglie Sara, non può parlarne con il figlio Isacco. E quindi potremmo dire che in questo momento l'etica rimane sospesa, come osserva Kierkegaard. Effettivamente si tratta, non c'è dubbio, di un assassinio. E tu dici che appunto con Abramo avviene proprio questo fallimento della parola, e che questo è più o meno la stessa cosa che stavi dicendo prima, apre la possibilità di dire di no. Ma la mia domanda è, però Abramo non dice di no. E su questo punto collegherei l'immagine che hai scelto per la copertina, in cui c'è questa immagine di Caravaggio, e che forse qui hai pensato, come dici nel libro, a un suggerimento, una suggestione di Levinas, che dice forse si vede nel volto del figlio la voce "tu non ucciderai". Un po' complicata la domanda, ma No, però la ripiglio dalla questione di Nimrod, perché in realtà Abramo, io lo considero, ma non io, insomma, devo dire anche nelle letture che ho fatto, Abramo utilizza la ragione, cioè vale dire, è un po' un campione della ragione, nel senso che utilizza la ragione per mettere in discussione gli idoli del padre, perché ve la racconto così in breve, lui, il padre Terach, ha un laboratorio artigianale dove costruisce idoli. E un pomeriggio Abramo, ragazzino, bambino, li fa a pezzi, li spacca tutti, li distrugge tutti, ne lascia intero solo uno, il più grande. E il bastone con cui ha rotto gli idoli lo poggia tra le braccia dell'idolo più grande. E quando Terach torna, ovviamente va a cercare suo figlio e dice: "Ma cos'hai fatto, disgraziato?" E lui dice: io non ho fatto nulla, dice, è stato lui, no? E indicando l'idolo col bastone in mano. E lì nel Midrash si dice, nel racconto si dice, che Terach abbia detto: "Ma che essi parlano?" E quindi Abramo risponde dicendo: "Beh, insomma, se tu credi a loro, devi anche poter pensare che il più grande gliela date ai più piccoli, no?" Cioè, Abramo fa spesso ricorso ad argomenti razionali. Fa ricorso, per esempio, ad un argomento razionale importantissimo quando cerca di intercedere per Sodoma con Dio. È una pagina di un'attualità spaventosa. Cioè, Dio ha deciso di distruggere Sodoma. Voi sapete che Sodoma è stata distrutta col fuoco. E Abramo, questo nel testo biblico, fa una domanda a Dio. Gli dice: "Vorresti forse distruggere, cioè uccidere il giusto con l'innocente? Metti che a Sodoma ci siano 50 giusti, li uccideresti? Lungi da te, dice, una tal cosa. Il giudice di tutta la terra non si comporterebbe secondo giustizia?" Attenzione, questa frase a noi suona così come una bella frase, ma in realtà contestualizzata, siamo attorno al V-VI secolo avanti Cristo, quando questo racconto è stato scritto, sta facendo appello a una situazione di una modernità incredibile, cioè l'idea che il sovrano debba attenersi alla legge. Cioè, è un principio di diritto importantissimo. Il giudice di tutta la terra non si comporterebbe secondo giustizia. Cioè, alla giustizia devi rispondere anche tu, che sei Dio. E qui, devo dire, parlava non con un primo ministro qualsiasi, parlava con Dio. Patteggia poi da buon mercante, alla fine non riesce a salvare la città. Per arrivare alla scena poi di cui Luisa ha parlato, cioè alla scena del sacrificio, poi noi lo chiamiamo sacrificio, in realtà in ebraico si dice akedah, che vuol dire legamento, perché Isacco non è stato ucciso. Però la scena è veramente terrificante, perché Dio, dopo aver annunciato ad Abramo la discendenza, numerosa e meravigliosa, da questo figlio avuto in tarda età. Addirittura la moglie Sara si mette a ridere quando sente che Dio annuncia la nascita di un figlio. Sara ride, Dio la sente tra l'altro ridere, gli dice: cosa ridi? C'è proprio questo scambio nella Bibbia, no? E gli dice: io non ho riso. Sì, hai riso, ti ho sentito che hai riso. Cioè, c'è proprio uno scambio, no? Lei ride perché dice: ma come faccio io vecchia ad avere un figlio? E avranno questo figlio, il figlio della promessa, no? Si chiama così. E adesso gli chiede di ucciderlo, gli chiede di sacrificarlo. Abramo non dice nulla, ma è in cuor suo, secondo me, esasperato. E allora che cosa fa? Alza la posta al limite. Prende il figlio, che non è un bambino, nel racconto biblico è un ragazzo maturo, e con lui va verso il monte, verso questo Moria. E ai servitori che li aspettano sotto dice: torneremo. C'è un plurale. Nella Bibbia le singole parole hanno un'importanza. Abramo dice: torneremo. Non dice: tornerò, torneremo. E salgono. E Isacco non fa domande, le fa all'ultimo momento, quando arrivano in cima. E Isacco chiede, sta chiedendo che succeda, insomma, no? Il padre lo lega, alza il coltello. Cosa sta facendo? Lo sta per ammazzare. A questo punto l'angelo ferma la mano di Abramo. In realtà che cosa è successo? Chi sta mettendo alla prova chi? Questo è il punto. È Dio che sta mettendo alla prova Abramo. Questa è la lettura tradizionale, no? La prova della fede. Per cui Abramo è il campione della fede. Io dico Abramo è il campione della ragione, non della fede. Nel senso che il campione della fede significa quello che è talmente fedele da essere disposto a sacrificare suo figlio. Se fosse così, avrebbe ragione Ernst Bloch quando dice che questa non è fede, questa è un'obbedienza belluina, la definisce Bloch. In realtà Abramo sta cercando qualcos'altro. Sta cercando, io ho detto, dentro questo comando assurdo e inconcepibile, il volto di Dio. Cioè sta cercando quello che poi diventerà chiaro sul Sinai, cioè non ucciderai. Cioè sta mettendo alla prova Dio. Ma il problema è che per mettere alla prova Dio deve andare fino in fondo. Avrebbe abbassato la mano? Non lo sapremo mai. E qui devo dire, tu non ami Derrida, ma Derrida ha scritto un piccolo libro su questo episodio che ha un titolo bellissimo, secondo me. Si intitola "Per favore, niente giornalisti". Che significa: non sapremo mai, non lo saprete mai se si sono detti qualcosa, cosa si sono detti. I testi non lo dicono. Sia la Bibbia, oddio, nel Midrash un po' di dialogo poi c'è tra loro, no? Un po' di dialogo c'è. Però non c'è dubbio che in qualche modo è come se Dio, guardate, forse mi riesce meglio dirvelo leggendo proprio quel passaggio, perché mentre lo scrivevo mi era molto chiaro. Ecco, Isacco guarda e non capisce, completamente esposto in una partita che non ha scelto. La pena del suo sguardo, nonostante ciò che accadrà dopo, è irreparabile. Non c'è soluzione, non c'è metodo o risposta che possa valere definitivamente l'imperativo della Torah. L'imperativo della Torah governa l'attimo e tanto deve bastare. Non ucciderai, ora tu non ucciderai. Proprio mentre, perché stai per farlo. Per questo Caino è custode di Abele. Perché Caino, quando poi Dio lo chiama e gli dice: la terra mi ha portato notizia del sangue di Abele, cosa hai fatto, dov'è tuo fratello? La risposta di Caino è: sono forse io il custode di mio fratello? È certo che sei il custode, l'hai appena ammazzato. Se l'hai ammazzato vuol dire Guardate che questo è Levinas. Vuol dire che non c'era niente e nessuno in quel momento tra te e lui. Vuol dire che nemmeno Dio poteva impedirlo e quindi vuol dire che tu ne eri il custode. Vuol dire che l'ultimo a cui potevi fare affidamento è proprio colui che ti ha ucciso. È uno strano paradosso, ma è un paradosso importante questo. E proprio mentre perché stai per farlo, proprio perché niente può impedirti di farlo. Se Dio avesse protetto Abele, Caino non avrebbe potuto ucciderlo. Questo significa anche che Dio non può. Qui c'è il tema della ferita dell'onnipotenza, no? Nessun ordine di Dio può giustificare l'assassinio, ma nemmeno può impedirlo. L'angelo dovrà implorare Abramo di non affondare il colpo. Il suo non assomiglia in nulla a un intervento magico. Che un ordine del genere sia da rigettare persino se viene da Dio, significa tukur, scrivo io, che Dio non vuole questo, né lo vorrà mai. E questo è Kant, secondo me. Ho detto altrimenti l'insindacabilità dell'imperativo, la sua origine divina, e quindi forse rispondo anche alla domanda precedente, potremmo azzardare senza alcun paradosso, si mostra nella possibilità di elevare un no persino a Dio nel caso di un simile ordine, nella possibilità di svincolarsi da Dio stesso per camminare da soli alla luce dell'etica. Cioè è come dire che il significato del quinto comandamento è sul Moriah. È come dire che quel comandamento vale anche se fosse Dio stesso che ripensandoci ti comanda di farlo. Nel Talmud troviamo scritto: io obbedirò alla tua Torah anche se tu dovessi abbandonarla. Un'altra figura ancora più enigmatica in cui tutti questi temi si aggrovigliano è naturalmente quella di Mosè. E su questo io ti chiederei due cose un po' semplici, perché questa parte anche del testo è molto ovviamente aggrovigliata e enigmatica in molti passaggi. E la prima cosa che ti chiederei è di raccontare quel passo in cui si spiega perché le prime tavole sono state o si sono spezzate, perché l'ho trovato... per me è nuovo e comunque molto interessante. E naturalmente questo, la figura di Mosè ci richiama al titolo, e quindi ti chiederei di tornare al titolo e spiegare perché hai scelto questo. Sì, se recuperami intanto proprio la pagina anche delle tavole. Vediamo se riesco. Ma allora il titolo, la ferita dell'onnipotenza. Questo titolo fa riferimento ad un episodio sempre del Bereshit Rabbah. È un episodio importante, cruciale, secondo me. Molto divertente a leggerlo, ma forse la situazione non era così divertente. Non la immaginavano così, perlomeno i rabbi che l'hanno scritta. Cioè, nel senso che dicono che quando Dio si accinse a creare l'uomo, dopo aver creato tutto il resto, quindi questo meraviglioso, gigantesco... questo universo meraviglioso dove tutto funzionava benissimo, gli astri, il sole, la luna, gli animali, gli esseri secondo la loro specie. Tra l'altro faccio notare che se dal racconto del Genesi noi togliamo il nome di Dio, otteniamo forse quello che io considero il primo racconto di biologia evolutiva della storia dell'umanità. È interessante perché nel resto del Mediterraneo, in quel momento, in quel periodo, i racconti delle origini erano sempre racconti carichi di mito. La Genesi non lo è. Ebbene, appena si accinge a creare l'uomo, sembra che gli angeli si siano ribellati a questa intenzione, abbiano sconsigliato Dio dal fare l'uomo. Cioè gli angeli erano contrari, molti angeli perlomeno. E dicono: ne discenderà la sciagura, ne discenderà la guerra, ne discenderà la violenza. Altri dicevano: sì, no, ma discenderà anche la giustizia, ne discenderà anche la misericordia. A un certo punto si alza addirittura la verità. Ora, la verità nella tradizione mistica ebraica è il sigillo di Dio. Si alza la verità e dice: non lo creare, perché ne discenderà la catastrofe. E Dio che cosa fa? Butta a terra la verità, la sbatte per terra. Gli angeli se la prendono con lui e dicono: ma tu disprezzi il tuo sigillo, si alzi la verità. Sono gli angeli a dirlo, non Dio a dire si alzi la verità. E ricominciano la discussione. E mentre stanno discutendo, Dio dice: sentite, è inutile che continuate a discutere, perché intanto l'ho già fatto. Cioè, mentre stavate lì a parlare, io intanto l'ho fatto, quindi si va. Cioè, allora, c'è dentro questo racconto l'idea dell'assunzione di un rischio. E questo rischio ha a che fare proprio con la libertà. Esiste nella libertà, come nella novità, per questo c'entrava la novità, come nell'accadere del nuovo, esiste un elemento di imponderabilità, esiste un elemento di indeducibilità. Cioè, è un elemento di profonda incertezza. E quindi a questo punto il creato stesso è a rischio, in un certo senso Dio stesso è a rischio. Noi siamo la ferita dell'onnipotenza per il semplice motivo che la libertà non si concilia concettualmente proprio con l'onnipotenza. Che io sia libero significa che in qualche maniera posso agire secondo un ordine di decisioni che non è scritto da qualche parte. Se è scritto da qualche parte vuol dire che non sono libero, vuol dire che credo solo di esserlo. Questo è un fatto fondamentale, è un passaggio fondamentale. Questo vuol dire che non è vero ancora una volta quello che ci insegnavano nel catechismo quando dicevano: guarda che Dio nel tuo intimo ti vede, sa tutti i tuoi pensieri. No, in realtà la Bibbia racconta un'altra storia, racconta di un Dio che va cercando l'uomo perché non lo trova, perché non sa dove diavolo si è nascosto, la scena del giardino, no? Ecco, e nella Torah, nella scena della Torah, della consegna della Torah, che è una scena lunga, strana, bellissima, perché c'è un saliscendi continuo di Mosè che va su e giù, tentando di tenere insieme come due fili di un tessuto che non tiene, no? E va da Dio, Dio intanto sta decorando la Torah con una serie di arabeschi, poi su questo magari vi racconto una cosa abbastanza buffa. Torna, è Dio che gli dice: torna giù perché il tuo popolo, no? Ecco, sì. Perché il tuo popolo sta dandosi all'idolatria. Notare che l'idolatria non è dedicarsi ad un'altra divinità, no, no, è aver fatto del Dio innominabile uno stupido vitello, no? Cioè un vitello d'oro, come dice Monio Vadia, una volta ha fatto questa battuta, ha detto: voi sapete che gli ebrei sono famosi per essere dei buoni affaristi, è un po' una leggenda antisemita, ma in qualche maniera era uno dei lavori che potevano fare perché tutti gli altri erano stati proibiti. E dice: per noi, dice, il contante deve girare, non può stare concentrato in uno stupido vitello, no? Ecco, ed è Dio dirgli, addirittura Dio gli dice: guarda, scendi giù perché sennò io li distruggo. Anzi, li distruggo e poi darò a te un nuovo popolo, e lì sarà Mosè a intercedere, a dire: no, se tu distruggerai loro dovrai distruggere anche me. Quindi li salva in qualche maniera, no? Ecco, e qui c'è questa storia delle due tavole, che è molto particolare, perché Mosè quindi sa che cosa sta succedendo. Quando arriva in prossimità della scena dell'adorazione del vitello, lui sa già cosa sta succedendo. E allora perché le getta a terra le tavole? Le spacca, le frantuma, no? E da questo momento, tra l'altro, esisteranno due tavole. Le tavole frantumate, su cui non sappiamo in fondo se ci fosse scritto lo stesso che poi abbiamo letto sulle altre, no? E le altre tavole. Anche se la tradizione rabbinica ci assicura che il testo delle tavole è lo stesso. E cosa ho scritto io su questa roba qua? Molto bella questa parte. Ah, ecco. In cui volano via le lettere. Ah, sì, che volano via le lettere, dice. E Mosè continuò a tenere strette le tavole mentre scendeva, rifiutando l'idea che Israele avesse peccato. Se non lo vedo con i miei occhi, non posso crederci. Quando la scena idolatrica gli si mostrò in modo inequivocabile, furono le lettere della Torah a volare via dalle tavole. le quali, senza la meravigliosa trasparenza di quei segni di luce, divennero pesanti e insostenibili, cioè tornano a essere pietra. Perché in questo racconto è come se le tavole fossero leggibili, quelle tavole, le prime tavole, fossero leggibili da qualsiasi parte le si guardasse. È una specie di piena leggibilità. Cioè le prime tavole, ecco, questa è la vera differenza rispetto alle altre. Le prime tavole sono le tavole di una benedizione definitiva. Sono in un certo senso le tavole dell'avvento del regno di Dio. È come dire, non ci sarà bisogno più di nessuna spiegazione, perché le potrete leggere da qualsiasi punto di vista voi osserviate, le leggerete per intero. Quelle tavole, pienamente leggibili, si frantumano, le lettere volano via, e a questo punto invece le seconde avranno bisogno di millenni di interpretazioni, no? Questo è il punto. Sì, io tornerei proprio a questo tema delle 70 lingue e dei millenni di interpretazione, perché mi sembra che appunto soprattutto nella tradizione ebraica emerga questa centralità del linguaggio, dalla Torre di Babele alla confusione delle lingue, quello che abbiamo detto, accennato prima, di confronto tra Abramo e Nimrod, Abramo che non può parlare, Mosè che balbetta, Aaron che diventa la sua voce. Viene in mente Moses und Aaron di Schoenberg, e viene in mente anche, non so se ti ricordi, quando siamo andati in gita a Berlino, il fatto che Libeskind avesse costruito e progettato il Mosè ebraico a partire da questa partitura di Schoenberg, dal punto di vista visivo intendo. E quindi questa collocazione... Tra l'altro abbiamo avuto la fortuna di vederlo vuoto. Vuoto, che poi invece era pienissimo la volta dopo. E questa collocazione del linguaggio è, secondo te, è collegata con questo tema delle possibilità, delle diverse interpretazioni e anche di nuove interpretazioni? Beh sì, certo che è collegato. Cioè, allora, si usa a dire che, così una semplificazione, ma che i greci sono il popolo dell'occhio e gli ebrei sono il popolo dell'orecchio, no? Cioè, quindi dell'ascolto di una parola. Cioè, quindi il linguaggio è centrale. Basta pensare che in ebraico dabar vuol dire parola, ma vuol dire anche cosa. Cioè vuol dire tutte e due le cose, vuol dire sia parola che cosa. E questo è molto interessante, soprattutto immaginando che il mondo è stato creato con la parola, no? Cioè quindi la parola ha questa potenza, ha questa possibilità. Per cui è vero, c'è in questa tradizione, che in parte insomma ha influenzato poi l'Occidente, una vera fedeltà alla parola, al linguaggio. Questo tema dell'interpretazione è importante perché, ora tu prima hai detto le 70 lingue, è un testo del Talmud babilonese, nel trattato Shabbat, dove si dice la mia parola, si cita prima Geremia 23-29, la mia parola è proprio come il fuoco, dice il Signore, come un martello che spezza la roccia. Il Talmud commenta come questo martello frantuma una pietra in molti frammenti, così ogni singolo enunciato uscito dalla bocca del santo, benedetto egli sia, si è diviso in 70 lingue. E sono 70 lingue, non soltanto le lingue diverse che gli uomini parlano, perché non dimentichiamoci che nella distruzione della Torre di Babele, il fatto che Dio dica scendiamo perché questi stanno facendo sta cosa piramidale, in realtà non è per punire gli uomini, è per salvarli. Cioè salva la pluralità delle lingue dal sogno invece di unificarle in un unico linguaggio, no? Quindi la pluralità delle lingue è un bene preziosissimo, è un segno divino. La pluralità delle lingue è la nostra ricchezza. Ma non è solo la pluralità di diverse lingue, è anche la pluralità delle interpretazioni. È il fatto che nel testo biblico si dice ad un certo punto, adesso non ricordo esattamente la fonte, dice due parole sono state dette, una parola è stata detta, io due ne ho udite. No? È un salmo, mi sembra, appunto, grazie. Due ne ho udite, ma non perché non ci sento bene. È vero che la parola di Dio è una, ma nello stesso tempo questa parola produce interpretazione. Cioè, l'interpretazione umana è fondamentale. È come dire, guardate, può sembrare assurdo dirlo, ma è come dire che nemmeno Dio ha una interpretazione piena della scrittura fino a quando gli uomini non l'hanno interpretata. Cioè l'interpretazione è parte della millenaria storia della rivelazione. Questo è il discorso. Cioè l'interpretazione è fino in fondo scrittura. Per cui in questa tradizione si dice, per esempio, c'è un piccolo detto talmudico che dice che sul Sinai a Mosè è stata rivelata non solo la Torah scritta, la Bibbia appunto, ma anche tutte le interpretazioni che fino all'ultimo dei discepoli nei millenni sono state fatte. Mosè queste le sapeva già, gli erano state dettate, no? Poi se le dimentica, perché c'è un bellissimo racconto sempre nel Talmud dove si dice che Mosè appunto è presso Dio che sta decorando le lettere della Torah con una serie di ghirigori, e allora Mosè gli dice che stai a scarabocchiare, dice dammele perché intanto sotto sta succedendo di tutto, e Dio gli dice taci perché verrà un uomo in futuro, Rabbi Akiva, che da ciascun segno, da ciascuno di questi piccoli segni che sto aggiungendo, dedurrà cumuli e cumuli di halakot. Le halakot sono le norme, no? Cumuli e cumuli di norme di vita. E allora Mosè dice, ma allora fammelo conoscere questo qua, perché Mosè un po' permaloso era, riteneva di essere lui il profeta di Dio, che ci fosse uno che la sapeva più lunga non gli andava tanto bene. Allora, fammelo conoscere. Per cui Dio simultaneamente lo spedisce avanti nel futuro, dove? Alla scuola di Rabbi Akiva. E lui è seduto in ultimo banco e sta ascoltando Rabbi Akiva e non capisce niente di quello che Rabbi Akiva sta dicendo. Allora lo chiede a un vicino di banco, no? Gli dice, ma che sta dicendo? E il vicino di banco gli dice, Rabbi Akiva sta spiegando la Torah di Mosè. E allora la sua anima ritornò leggera, dice il testo talmudico, no? Ecco, ma questo, anche questo, è divertente, ma in realtà ha un significato. Cioè è proprio come dire che l'interpretazione produce testo. Cioè non è solo, no, noi siamo abituati a pensare che le interpretazioni distorcano, no, qui c'è proprio un'idea contraria, l'interpretazione produce testo. Dunque occhio e orecchio, non farti immagini. Questo è chiaro per quanto riguarda la divinità, quindi un atteggiamento non idolatrico, anzi anti-idolatrico, che poi percorre anche il mondo ortodosso, il mondo luterano. Viene in mente quel romanzo di cui abbiamo anche una volta, mi pare, discusso, di Potok, che tra l'altro era un rabbino, Il mio nome è Asher Leff, in cui si parla di un giovane che ha questo talento per la pittura. E la comunità ebraica di New York, mi pare che sia, è diffidente, del resto anche Platone era diffidente nei confronti, almeno in alcuni passi, della pittura come copia delle copie. Ma questa diffidenza esiste davvero all'interno del mondo ebraico o si limita al discorso sul divino? No, esiste per una ragione che posso spiegare facendo riferimento a una cosa forse più nota, che è la famosa questione della cucina kosher, no? Voi sapete che gli ebrei non vogliono nella loro cucina, cioè no, è prescritto che non vengano mescolati i latticini e la carne. In realtà questo fa riferimento ad un comando nel Deuteronomio, mi pare, dove si dice non cucinerai il capretto nel latte della madre. Questo è un atto di rispetto verso l'animale, perché quella madre ha dato la vita a questo capretto che adesso tu mangi, quindi non la offenderai cucinandolo nel suo latte, nel latte che l'ha nutrito. Allora, la preoccupazione di trasgredire la norma fa sì che si costruiscano dei cerchi più larghi attorno, no? Quelli che nel Talmud si chiamano le siepi intorno alla Torah, no? Per cui, per non sbagliarci, escludiamo la contaminazione di latte e carne. Ecco, la stessa cosa in un certo senso è accaduto per l'immagine. Nel senso che qui, oltretutto, quello è un comandamento centrale, perché è il primo comandamento. No, non avrai altro Dio all'infuori di me. Non ti farai immagine, no? Che è un comandamento per l'uomo. Anche qui noi spesso equivochiamo. Io sono il tuo unico Dio. Non avrai altri dei davanti alla mia faccia. Letteralmente. Sembra una, come si può dire, una pretesa di signoria, no? Cioè, come dire, tu mi devi adorazione a io che sono l'unico vero Dio. E qui ha ragione Nietzsche quando dice tutti gli altri dei si misero a ridere nel sentire che un Dio diceva che era l'unico. Comunque morirono dal ridere, ma morirono, no? In realtà questo è forse l'equivoco più profondo sul primo fondamentale comandamento, nel senso che si pensa che questo comandamento sia un divieto di farsi immagine, quindi perché viene lesa l'unicità di Dio. E in realtà il comando è per l'uomo. Non farti immagine significa, ve lo dico così, non adorerai e non ti inginocchierai davanti a niente, perché è una cosa che devi soltanto a me. Ma io non sono di questo mondo. Questo significa che in questo mondo, cioè nell'esperienza che tu fai, non c'è niente e nessuno a cui tu devi adorazione. È un principio eversivo, è un principio di libertà. È come dire, non potrai consegnarti a nessuno, non consegnarti a nessuno, perché sei mio. Ma questa cosa va letta insieme. Sei mio significa non consegnarti a nessuno. Unico Dio significa la negazione degli dèi. Significa la negazione degli dèi. Non significa c'è un unico Dio che è un po' più presuntuoso degli altri. No, vuol dire la negazione degli dèi. Non so se mi spiego. Devi solo a me la devozione. Significa non devi la devozione a qualcuno o a qualcosa. Cioè non ci sia niente e nessuno a cui tu debba consegnare la tua vita. E questo è potentissimo, secondo me. Ed è il principio fondamentale dell'idolatria, ma è il principio dell'anti-idolatria, è il principio fondamentale della Bibbia. Cioè la Bibbia fondamentalmente questo dice. E c'è dentro una figura, una specie di fiducia tremenda nell'uomo. Perché è come se si dicesse che se l'uomo riesce ad essere in grado, anche grazie agli insegnamenti, essere in grado di non sottomettersi, di non rendersi prigioniero di qualcosa o di qualcuno, allora sì, forse è cosa buona. Ma questa è una fiducia. Allora, penultima domanda. Chi è la tua lettrice, chi è il tuo lettore, a chi ti rivolgi? Perché io all'inizio ho avuto un po' un problema. Pagina 40, tu dici che a un certo punto il lettore non credente deve in qualche modo aderire alla, tu scrivi, validazione nell'evento del Sinai. Ecco, e poi aggiungi la metafora degli occhiali. Non può aderire. Allora, può. Ti chiedo questa, cioè il lettore non credente, certo. E connesso a questo la tua posizione sulla Bibbia nella scuola, perché io trovo una scelta molto grave da parte dello Stato italiano e della Chiesa naturalmente, di impedire questa lettura con esiti che tu prima hai accennato un po' assurdi. Sì. E ridicoli sulle questioni, okay, del catechismo nella scuola. Sì, devo dire per onestà che la Chiesa non lo impedisce più, cioè se lo Stato volesse istituire o volesse in qualche maniera riconoscere la Bibbia tra i testi fondamentali della nostra civiltà, cosa che è, e se ne prevedesse l'insegnamento a scuola, la Bibbia, oggi la Chiesa non si opporrebbe, ieri si sarebbe opposta, oggi sicuramente no, no? No, il punto è che adesso il pregiudizio è dall'altra, no? È quello di pensare che se si fa questo, allora questo significa che introduciamo. Ecco. No, io questo credo davvero che il testo biblico sia imprescindibile per comprendere alcune faccende fondamentali della nostra cultura. Cioè penso che noi siamo debitori alla Bibbia di cose molto importanti e dei concetti di cui abbiamo parlato. Ritengo che davvero il concetto di libertà abbia avuto la sua gestazione nella Bibbia. Come ritengo anche che nella Bibbia abbiano avuto gestazione concetti come quello di novità, che sono concetti molto difficili da gestire sul piano filosofico, non a caso, perché implicano, ancora una volta, come ho detto a proposito della libertà, implicano qualcosa di non deducibile. Cioè la novità in qualche maniera è tale proprio nella misura in cui non possiamo calcolarla, non possiamo prevederla, non possiamo individuarla per quanti sforzi facciamo. Possiamo prevedere degli eventi, ma in quegli eventi ci saranno elementi di imprevedibilità, altrimenti quelli non sarebbero nuovi. Ma questa è una cosa a cui siamo abituati noi, cioè tutti noi crediamo che il giorno di domani sarà un giorno nuovo, non ci pone nessun problema. Però dal punto di vista filosofico e anche scientifico, in realtà si aprono delle problematiche. Nel libro si parla anche di questo. Però credo davvero che, guardate, per andare allo slogan più, se vogliamo, nel periodo più anticlericale della storia europea, penso alla Rivoluzione Francese. Ecco, io credo che quel famoso slogan che ogni tanto sentiamo, no? Liberté, fraternité, égalité, no? Ecco, qui ci sono tre parole che non esisterebbero, secondo me, senza la Bibbia. Cioè non esisterebbero, magari ci sarebbero arrivate per altre vie. Voglio dire però che vengono da là, vengono da quella tradizione che è rimasta come una sorta di tradizione per certi versi sotterranea ed è vero, un po' sequestrata dalla Chiesa. Tanto è vero che c'è stato anche un lungo periodo storico in cui la Chiesa proibiva il possesso e la lettura del testo biblico. Per cui tu non potevi leggerlo, cioè era un testo proibito paradossalmente, lo potevi leggere solo attraverso la mediazione sacerdotale, ma non potevi leggerlo direttamente, cosa a cui poi Lutero si ribella, eccetera, con conseguenze poi lì di un altro tipo, no? Ecco, e quindi sì, io credo che la Bibbia andrebbe conosciuta, va conosciuta. Ho qui qualche studente, qualche volta forse ci è capitato di parlare anche in classe di queste cose. Negli ultimi anni lo facevo molto di più e mi sono anche accorto insegnando a scuola, ma l'abbiamo verificato insieme, facendo delle lezioni insieme, come gli studenti fossero interessatissimi a queste cose. Cioè, voglio dire, se esci dalla, diciamo, da quel linguaggio un po' edulcorato con cui si parla della Bibbia, improvvisamente la Bibbia mostra tutta la sua potenza, io credo. E per arrivare alla questione della fede, se posso, perché c'è dentro qualcosa che ha a che fare con la fede per quanto mi riguarda? Io non so se sono un credente. Questa è una cosa che ho detto quasi sempre anche ai miei studenti, non lo so, non so bene che cosa voglia dire questa parola, ecco, cioè faccio fatica un po' a capirlo. Mi rendo però conto che mentre scrivevo mi sono accorto di questo, cioè mi sono accorto che stavo andando alla ricerca di alcune ragioni che non fossero quelle tradizionali elencate dalla teologia. Ma avevo la sensazione che ci fossero delle ragioni per credere. Può sembrare strano che uno dice, ma la ragione... No, forse ci sono delle... Quando dico delle ragioni non intendo spiegazioni della fede, non intendo spiegazioni che possono convincere qualcuno, ma intendo però ragioni per credere. E una mi è apparsa proprio nelle tre questioni che suddividono il libro in tre sezioni, cioè l'evento, la coscienza, la libertà. L'evento, cioè l'accadere, perché accade qualcosa di nuovo. La coscienza, che cosa significa che so di me, che cosa significa che so ciò che faccio, questione che è la radice dell'etica poi. E la libertà, che cosa vuol dire il fatto che io sono in grado di fare qualcosa di non prevedibile. Potrei farlo, no? Posso farlo. Mi concepisco nella possibilità di farlo. Che cosa significano queste cose? Ecco, mi sono accorto che queste tre cose hanno in comune un elemento appunto di indecifrabilità, di indeducibilità, una sorta di non conoscibile, non perché non abbiamo strumenti sufficienti per conoscere, ma non conoscibile per definizione. E credo che questa cosa la Bibbia in un certo senso ce la racconti. Ecco. Hai detto che volevi leggere una pagina. No, se avete voglia una pagina giusta. Chiudiamo con una lettura. Sì, chiudiamo con una piccola lettura che poi ha a che fare con la questione della comicità. Perché si ride anche dentro, tutta questa storia. Dunque, dov'è che è? Scusate che mi sono segnato. 137, ecco qua. Ecco, no, non è 137, accidenti. No. Io sorridere ho segnato 58, 250, ma non so se sia la stessa cosa. La parte abitata della sua terra, 138. Ah sì, ecco. Allora, questa pagina muove da una citazione di Giobbe. Anche la storia di Giobbe credo che la conosciate, sarebbe molto bello poter parlare anche di questo, ma insomma, a un certo punto Giobbe viene colpito da Dio, no? Viene colpito ingiustamente da Dio, lui ritiene di essere innocente, non capisce perché. Quindi protesta duramente. Scusa, l'ho riperso, 138, sono un po' fuso, scusate. E a un certo punto in questa protesta contro Dio, perché Giobbe gli dice se io e te fossimo in un tribunale io dimostrerei la mia innocenza. A un certo punto Giobbe dice tra poco mi stenderò nella polvere e tu bramoso mi cercherai e io non sarò più. Giobbe 7,21. E io scrivo, se resistiamo alla tentazione di leggere questi versi esclusivamente alla luce di ciò che li precede, alla luce cioè della persecuzione, mi adoperi come un bersaglio e fai di me il centro del tuo tiro, dice Giobbe prima. Potremmo vederci non solo la speranza di sfuggire finalmente alle frecce di Shaddai. Shaddai è un nome che compare nella Bibbia, che indica Dio proprio come quello che scaglia frecce. È l'onnipotente. Il Dio come onnipotente è Shaddai. Non solo la speranza di sfuggire finalmente alle frecce di Shaddai, mi stenderò nella polvere, tu mi cercherai, io non sarò più, e dormire in pace, ma anche l'ammonimento disperato di un amante. Quando finalmente mi cercherai sarà tardi, perché nonostante tutto so di essere amato da te. Giobbe sa qual è il segreto della creazione, sa perché valesse la pena creare l'uomo, o almeno sa che doveva valerne la pena al punto da mettere a tacere persino la verità. E mettere a tacere la verità perché l'uomo possa esistere è un atto d'amore sconfinato, è l'amore di una madre. L'universo e quanto esso contiene non sono stati creati se non con la Torah. Come detto, il Signore con la sapienza fondò la terra. Bereshit Rabbah. Sapienza è Chokmah. Chokmah e Torah sono equivalenti, cioè sapienza e Torah sono equivalenti. Il sogno di ogni cosa nella solitudine divina, la musica dell'inizio, il ritmo del divenire, il respiro della benedizione. Talvolta personificata come una presenza femminile accanto al creatore, la sapienza è creata prima ancora delle opere della sua creazione, Proverbi 8:22, e Dio solo la conosce. Se egli solo sa il luogo dove si trova, altrettanto è lei sola a conoscere il luogo delle lacrime di Dio. E proprio per questo è vicina al destino della creatura, ne traccia la parabola, senza giudizio, senza l'evidenza e la violenza del disegno, accompagnandola con la sollecitudine che potrebbe avere una madre. E qui ci sono dei passaggi dai Proverbi, bellissimi secondo me, dove della sapienza si dice che sta appostata ai crocicchi delle strade, presso le porte della città, al loro ingresso, sulle soglie degli usci, per ascoltare gli uomini, attenzione, ma non perché li vuole spiare, perché è felice nel sentire le loro voci, nel stare a sentire le loro voci. E anche allarmata dall'inesperienza degli uomini, ma anche avvezza alla gioia e ai canti, sempre Proverbi, ora mi rallegro nella parte abitata della sua terra, la mia delizia essendo con i figli dell'uomo. La scelta è fatta definitivamente per la parte abitata della sua terra, per quel crepuscolo così vivo che scalda la vita degli uomini, nonostante sia foriero del tramonto, e scalda lo sguardo di Dio che vi si posa e quasi vorrebbe mescolarsi alla danza dei suoi figli. Perché guardate che in fondo il vero annuncio è questo, e questo è vero per gli ebrei, ma è vero per i cristiani. Non si tratta di andare tutti in paradiso, si tratta di creare le condizioni perché Dio possa abitare con le sue creature. Cioè, non siamo noi a salire, è Dio che vuole scendere. In qualche modo è come se da questi testi io avessi ricavato questa idea. È fatta la scelta per queste creature che non durano, che faticano a capire, che sbagliano, feriscono e uccidono. Ma sanno anche salvare, aiutare, sognare l'infinito, amare e ridere. Perché si può anche ridere nella parte abitata della sua terra, nonostante tutto. E... grazie. E sul riso, scusate, vi racconto solo una piccolissima, un piccolissimo racconto. Che non è mio, è di Amos Oz, che ha scritto questo bellissimo libro contro il fanatismo. E qui vorrei dire una cosa che va in direzione di Fillide, perché Amos Oz in questo libro dice che è difficile riconoscere un fanatico, però un criterio, dice, io ce l'ho: un fanatico è privo del senso dell'umorismo, perché non ho mai conosciuto un fanatico che ne fosse in possesso e non ho mai conosciuto una persona che fosse in possesso del senso dell'umorismo che fosse fanatica. E racconta un piccolo episodio che secondo me è ricavato da un midrash in realtà, di un signore che va in un caffè, va in un bar e si siede a un tavolo, e seduto a questo tavolo c'è un vecchio che sta leggendo la Bibbia. E a un certo punto realizza, si convince, che questo signore, questo vecchio signore è Dio. È certo che è Dio, è assolutamente certo che sia Dio. Per cui non resiste, insomma, e gliela fa la domanda, no? Le dice, senti, dice, dato che sei qua, signore, Dio del cielo e della terra, mi puoi rispondere? Dice, ma cioè, toglimi questa curiosità, cioè ci siamo attanagliati, ma chi ha ragione? Cioè, ha ragione Buddha o Maometto? O hanno ragione i cristiani? O abbiamo ragione noi ebrei? Chi è che ha ragione? E questo signore lo guarda e gli dice, ma, dice, questo riguarda la religione, e se ti devo dire la verità, figlio mio, a me la religione non interessa molto. Benissimo, grazie Sandro. Grazie a te, Luisa. E magari qualcuno vuol fare qualche domanda? Molto complicata. improvviso. Va bene, allora rimaniamo d'accordo. Ah no, c'è una domanda. Improvviso la domanda che credo che interpreta un messaggio che ieri sera la Gabriella mi ha mandato dopo che aveva ascoltato Mancuso alla trasmissione di La Torre di Babele, e lì Mancuso presentava il suo ultimo libro Gesù è il Cristo, e il discorso di, per quel tanto che lo posso sintetizzare, è che Gesù va riconosciuto in tutta la sua dimensione di storica, quindi figlio dell'ebraismo e appartenente all'ebraismo. Il Cristo, come l'hanno visto i credenti, non è altro che una interpretazione. È vero che tu recuperi l'interpretazione in senso positivo, un'interpretazione nel senso però di allontanamento da Gesù, no? È quasi che perché il Cristo di cui parla lui è il Cristo che è la pienezza dell'umanità, e quindi qualsiasi persona, qualsiasi credente, qualsiasi altro profeta, qualsiasi altro maestro, nella proporzione con cui è in quella verità che non è la verità, ultima parola di cui dici tu, è il Cristo. Ho capito. Sì e no. Cioè, nel senso, io su questo, c'è un po' di roba scritta su questo nel libro, ci sono un paio di capitoli dove Gesù entra in scena, no? Yeshua entra in scena, ma non solo come maestro dell'ebraismo, entra in scena anche proprio come Messia, cioè entra in scena anche proprio come una figura. Io credo che poi, insomma, lo diceva Leo Beck, il Vangelo sia un testo ebraico, anche se non è scritto in ebraico, è un testo ebraico. È un grande problema questo. Ecco, adesso abbiamo poco tempo per sviscerarlo. Posso solo dire una cosa, che un po' è sempre stata al centro della riflessione e che secondo me c'entra con questa questione della ferita dell'onnipotenza. Cioè, noi siamo anche in questo caso, no? Dal punto di vista, diciamo, del catechismo, no? Siamo abituati a pensare che Dio ha mandato il suo unico figlio perché morisse per noi, eccetera, eccetera, come se tutto fosse già scritto. Come se questo percorso dovesse compiersi e non potesse altro che compiersi così. In realtà, sì, ok, dell'agnello immolato. Ecco, io credo invece che i Vangeli ci raccontano una storia un po' più contraddittoria, con dentro più spigoli, perché Gesù non è affatto contento di andare incontro a questo destino. In qualche maniera gli si oppone, in qualche maniera chiede un'altra strada, chiede un'altra possibilità. Ma quello che voglio dire è che o noi pensiamo che tutto questo sia dentro una sorta di destino prescritto, per cui come era scritto nelle scritture si realizzerà che, e quindi il compimento, no, nella direzione quasi hegeliana del farsi dello spirito assoluto, ma allora se è così è un teatro tragico di cui conosciamo già la trama, o almeno tu già la conosci la trama, e allora che ci fai recitare queste parti, no? Oppure apriamo alla possibilità inaudita in un certo senso e forse assai problematica che tutto questo sia una partita aperta non solo per l'uomo ma anche per Dio. E qui, in questa direzione, si muove per esempio un grande autore che è Piero Stefani, quando definisce l'onnipotenza come categoria escatologica di Dio, cioè vale a dire come il Dio della fine, non dell'inizio. E quindi di quell'onnipotenza ne siamo responsabili. Dipenderà da noi che il regno possa realizzarsi. E Gesù è dentro questa storia, non è fuori da questa storia. Ecco, sono le 19, mi fa presente Luisa, giustamente. È giusto. No, l'ho presa un attimo fa. No, ma sono anche le 19 ore di andare. Io Però colgo l'occasione allora per ringraziarvi. Grazie. Perché è stato interessantissimo e siete riusciti anche a renderlo semplice con un dialogo e un... Sì, vi ringrazio perché insomma non era facile. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie dell'ospitalità. Possiamo riascoltare questa conferenza sul sito della biblioteca perché registriamo tutti i nostri interventi e anzi vi invitiamo a curiosare quelli che abbiamo conservato da 20 anni a questa parte. Ecco. Arrivederci.